ancora il crepitio della polenta sul fuoco ti riporta alla stessa cena di ogni giorno, il formaggio già pronto con le patate. Quante volte per i viventi l'equilibrio conquistato è una ricetta con pochi ingredienti. Senza ricami